La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Leggere, ascoltare, ridere, giocare, crescere con la fiducia nel futuro. Claudio Magris è un professore che ricorda la scuola con l'allegria di certi studenti discoli. Magris è un intellettuale che scrive ancora con la penna i suoi romanzi, ma adora i giovani, le tecnologie e la possibilità di imparare. A tutti noi manda a dire una cosa semplice e bellissima: abbiate pazienza, leggete tanto, tantissimo. L'unica cosa che forse si potrebbe dire, la pazienza rispetto alla conoscenza, no? Ecco, quello che non funziona, forse, io l'ho visto dal mio piccolo angolo universitario, nel mondo, si può riassumere nell'esempio di quella sciagurata scopiazzatura del mondo anglosassone, fatta senza avere la cultura, la tradizione anglosassone, introducendo il sistema dei crediti, cioè l'idea che tutto quello che si fa deve essere immediatamente premiato subito. Le faccio subito un esempio per dire quello che intendo. Io quando insegnavo, contemporaneamente per alcuni anni ho tenuto a Trieste un seminario che non c'entrava con l'università, insieme ai fisici e ai matematici della scuola superiore di Miramare, che è un'altissima scuola con molti premi Nobel, eccetera, sui rapporti fra letteratura e scienza, se in che modo la scienza di oggi, così complessa, può o no influire sulla letteratura, cioè sul modo nostro di vedere il mondo. In questo dialogo venivano scrittori interessati a questi problemi, come del giudice, fisici, eccetera, insomma. E i miei studenti venivano a sentire questi dibattiti, queste cose, che non c'entravano niente con i loro studi, no? Con i loro esami. A un certo punto gli studenti sono scomparsi. Io ho chiesto a uno studente: come mai non venite più? E lui mi ha detto: se ci dessero dei crediti. E io gli ho chiesto: ma lei non ha mai baciato gratis una ragazza? Perché ci sono degli investimenti che si fanno. Non è che uno debba essere, ecco, questo è una cosa che è molto sbagliata, per dirne una. Io so benissimo che anche quello che guadagno adesso scrivendo sul Corriere lo devo in parte alle letture che ho fatto quando leggevo Dostoevsky, ma mica mi facevo pagare per leggere Dostoevsky, o pretendevo che mi dessero un voto perché avevo letto, no? Ecco, questo sistema è così della, mi sembra, è anche e soprattutto il senso che va conosciuto il mondo di oggi, ma va conosciuto il mondo di ieri, perché io credo che leggere l'Antigone di Sofocle aiuti a capire quello che succede adesso, non meno che partecipare a quello che succede adesso. Claudio Magris nasce a Trieste il 10 aprile del 39, l'infanzia segnata dalla guerra e dal dopoguerra, in una città, Trieste, forte. Dunque, io sono purtroppo figlio unico, ho avuto un'infanzia a Trieste, con un'infanzia, sono nato nel 39, con un'infanzia che è coinciso con la guerra, guerra di cui mi sono accorto perché ad esempio c'erano due nostre parenti la cui casa a Napoli era stata bombardata e quindi non erano case, che dormivano nel corridoio di casa nostra a Trieste, che non era una grande casa, altri fratelli di mio padre e di mia madre che venivano a mangiare a casa nostra. Ricordo gli allarmi notturni, arrivava mio zio velocissimo che mi prendeva in braccio prendendoselo con i miei genitori, che secondo loro erano troppo lenti, dicendo a loro che erano liberissimi di morire sotto le bombe, ma non di far morire anche me. Un'infanzia anche incantata, mi ricordo un mio zio favoloso che ebbe una fine tragica, che ho anche raccontato, che credo ci sia anche nell'introduzione ai Meridiani, il quale è proprio era un mago e dedicato. Per esempio, quando si avvicinava il Natale, pensi a Natale in tempo di guerra, lui comprava un albero grande di Natale e cominciava a lavorarci, lui era un ingegnere, aveva contrariamente a me un genio anche manuale, meccanico, e quindi era un albero di Natale da cui, non so, premendo un bottone elettrico piovevano caramelle o vattene, e lavorava per 2 giorni applicandosi alle spalle 2 ali, in modo che se io guardavo oltre il vetro smerigliato, a cui non potevo distinguere bene, vedevo vaghe sagome angeliche. Mi mandava poi delle lettere in cui San Nicolò, in cammino da Bari per portare i doni, arrivava in ritardo, veniva fatto prigioniero, fuggiva. Quindi infanzia fino a un certo momento solitaria, però molto, molto intensa, con un rapporto eccellente con i miei genitori. Vedevo soltanto che mia madre, che era mia madre che si occupava di me, mi insegnava, mio padre è stato in un certo periodo in guerra, poi è stato in giustizia e libertà e così via, ecco, avevo la sensazione che siccome mia madre non si lamentava mai, che tutti trovassero naturale il suo fare, il suo lavorare, mentre altre mie zie lì, che affettuosissime con me, mi portavano a spasso, però insomma capivo che facevano poco o perché avevano i loro giorni, o perché li avevano avuti, o perché stavano per averli, o perché non arrivavano, insomma capivo l'ingiustizia che si commette verso i forti, verso chi ha le spalle forti e le mette a disposizione degli altri senza lamentarsi, i finti deboli ne approfittano, però ho avuto un'infanzia molto, poi c'è stato l'episodio, se vogliamo far arrivare l'infanzia fino ai 4-5 anni, di quel fondamentale inverno della mia vita, che è stato il 44-45 a Udine, perché mio padre era malato all'ospedale, io ero ricoverato a Udine e io e mia mamma stavamo così in una specie di una famiglia per stare vicino, e Udine era occupato dai nazisti, da quei loro alleati strani, cosacchi, a cui i nazisti avevano promesso una terra cosacca che avrebbe dovuto essere situato in Friuli. Io vedevo questi strani soldati cosacchi, cavalli, cammelli anche, e poi una storia, immagini che hanno covato lungo in me, avrei scritto poi il primo romanzo, Ilazioni su una sciabola, che è la storia di questi cosacchi. Poi è cambiato molto con la scuola, in cui è scoppiata invece tutta una vita molto di amicizie, di scherzi, una vita sanguigna, gioiosa, forte, il giardino pubblico, le avventure, le corse, le sparizioni, nascondersi nei cespugli, una vita molto avventurosa, insomma, molto bella, molto, molto, molto, molto ricca da questo punto di vista. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Leggere e scoprire che il mondo, tutto il mondo è casa nostra, questa è la prima volta per Claudio Magris. Avviene quando da piccolo scopre infinite possibilità di viaggio, anche stando in un cortile. Io credo di avere imparato abbastanza da piccolo. Il primo libro che io ho letto, perché i libri che contano non sono quelli che noi scriviamo, soprattutto quando si è così, degli scrittori medi come sono io, ma anche se fossi un grande scrittore, i libri che ci formano sono quelli che leggiamo, no? E quelli che ci aprono il mondo, molto più importanti di quello che scriviamo. Borges ha detto: la mia gloria sono i libri che ho letto, non quelli che ho scritto. Se lo dice Borges, non possiamo dirlo ognuno di noi, perché è vero. Il primo libro è stato I misteri della giungla nera di Salgari. Anzi, ha cominciato a leggermelo mia zia Maria, perché io non sapevo ancora leggere, avevo 5 anni, mentre lei me lo leggeva, naturalmente un pezzo alla volta, la sera, io ho imparato a leggere e me lo sono finito da solo. Ed è stato il libro fondamentale della mia vita, in qualche modo, anche se, insomma, fate le debite proporzioni, perché, vede, intanto quell'inizio bellissimo, questo Gange, il fiume, non avrei scritto credo Danubio se non ci fosse quell'impressione del Gange, e poi soprattutto In quei libri e anche gli altri di Salgari ho incontrato da un lato la varietà del mondo, perché un libro mi portava in Africa, in un altro gli eroi erano asiatici, in un altro eschimesi, in un altro inglesi, in un altro russi, quindi questa idea della varietà del mondo e del fascino di questa varietà, però contemporaneamente anche l'idea che questa varietà è unita in una sostanziale unità umana, sono come, è come un grande albero in cui naturalmente le foglie sono diverse dai frutti, le radici sono diverse dal tronco, i rami non sono gli aghi, però tutto si tiene insieme, quindi questo senso che è fortissimo della varietà del mondo e della sua diversità, ma anche della sua sostanziale unità. Io detesto le diversità selvagge, mi piacciono i luoghi piccoli quando contengono il mondo intero. No, odio lo slogan small is beautiful, mi piacciono le cose piccole, perché nel cortile di sotto casa mia, molto piccolo, io giocavo con i miei amici, anzi erano amiche, perché avevo due bambine, poi ragazzine nel casamento, ma lì incontravo il mondo, la corsa, l'avventura, il vento, non il mondo piccino, il mondo grande, no? E questo me l'ha dato, proprio avuto questo senso forte, che tutto il mondo è casa nostra e che tutto il mondo è pieno di interesse, di varietà, di cose, e quindi ho imparato insomma ad amare questo grande Atlante che è la civiltà in tutte le sue forme. Lei ha detto di essere uno scrittore modesto, in realtà sappiamo medio, tutti ho detto, che medio, ho detto medio, medio, ma in realtà sappiamo tutti insomma qual è il suo profilo, è considerato uno tra i più grandi scrittori contemporanei italiani e non solo, tant'è che è stato anche candidato al premio Nobel per la letteratura. Ma no, guardi, questo le ringrazio molto quello che dice, poi non spetta a me dire, sono gli altri che giudicano il valore, che poi è disuguale, un libro vale di più, uno di meno, eccetera. Non faccio affatto il falso modesto, che sarebbe stupido, insomma, no? Ho il senso delle proporzioni, ma insomma che si accompagna, certo, anche una consapevolezza di di cose buone che ho realizzato. La storia del candidato al premio Nobel non esiste, perché intanto non esistono candidati, non è candidati come alle elezioni, questi sono semplicemente i brokers di Londra che fanno delle scommesse. Ora, l'unico significato che ha questa cosa è che evidentemente il mio nome non è ignoto, se qualcuno scommette, ma non c'entra assolutamente niente con le decisioni o gli indirizzi dell'Accademia di Svezia. Senta, le volevo chiedere quanto ha influito, ma in parte ha già risposto, comunque la città di Trieste nella sua formazione artistica. Indirettamente, nel senso che ha influito molto, però me ne sono accorto dopo. Io sono stato un lettore precoce, ho letto Guerra e Pace credo a 12 o 13 anni, ho letto Dostoevsky a 14, però quando sono andato a studiare a Torino, ad un'altra grande città della mia vita che ha influito altrettanto, io ho due figli fra cui non scelgo, e così ho due città fra cui non scelgo, che sono Torino e Trieste, io non avevo letto neanche una riga a 18 anni, pur avendo letto Proust appunto tantissimi autori, e così anche molto insomma grandi, non avevo letto neanche una riga di autori triestini, perché per quella sana, anche se sbagliata, diffidenza che un giovane ha verso le glorie di casa propria, tutti gli rompono le scatole, ogni strada porta il nome di scrittore patriota, e si pensa sempre che siano un po', che siano cose diciamo così locali. E dopo, quando ho cominciato a leggere così a Torino, ma più per nostalgia per Trieste, ho visto insomma la grandezza assoluta di Svevo, di Saba, e allora ho cominciato ad accorgermi che Trieste è una città particolare, ricordarmi questa frontiera vicinissima a casa mia, perché Trieste è una piccola città, quindi la frontiera, però non era una frontiera qualunque, era la cortina di ferro, quindi invalicabile, dietro questo mondo poi, dietro questa frontiera invalicabile c'era un mondo che era contemporaneamente così sconosciuto, minaccioso, perché non era il mondo di Stalin fino a un certo punto, periodo, no? In cui non si poteva andare, però contemporaneamente lo conoscevo benissimo, perché erano quelle terre che facevano parte politicamente dell'Italia fino alla fine della guerra, che poi la Jugoslavia vittoriosa aveva occupato, e cui ero stato tante volte, quindi questa coincidenza, qualcosa che è familiare e ignoto, casa tua e mondo irraggiungibile, credo è stata fondamentale per la letteratura. Io ricordo in alcune interviste ha raccontato che per scrivere talvolta va proprio dove si radunano le persone. Il caffè, che vanno poi sparendosi, intanto c'è c'è abbastanza distanza tra un tavolino e l'altro, si passano ore seduti, almeno io passo ore seduto scrivendo, leggendo, sgranchendomi tanto le gambe, questo sì, molto volentieri, ma il caffè proprio, del resto non è una mia originalità, perché è tutta una tradizione, sia centroeuropea, e quindi molto triestina anche, ma sia anche italiana, pensi ai caffè letterari di Firenze, tanto per dire, no? Certo. Oppure pensi alla Francia, insomma, no? Sartre, i surrealisti, insomma, no? Ecco. Io amo molto perché intanto perché il caffè mi porto le cose che mi servono, mentre in questo momento che sono a casa mia, alzo gli occhi e se stessi scrivendo vedrei nella mia biblioteca di fronte dei libri, leggere i quali è molto più interessante che scrivere le cose, nel passo in testa, se mi avrebbe voglia di leggere quei libri e non di scrivere quello che ho per la testa. Poi il caffè, vede, sì, è soli e in compagnia, soli perché si è appunto come afferrati quella tavola, come una zattera nel mare della vita, e quando si scrive c'è sempre un piccolo delirio di onnipotenza, uno crede di mettere il mondo a posto, e vedere gente intorno che se ne frega non fa male. Le volevo chiedere anche l'emozione che ha provato quando è stato pubblicato il suo primo libro. Che emozione è stata? Beh, sa, io ho avuto anche una grande fortuna, perché il primo libro che io ho pubblicato, proprio libro, è stato Il mito asburgico, che è uscito nei saggi Rossi e Einaudi, che sono e soprattutto erano veramente, insomma, un po' un Olimpo, quindi una cosa che non è tanto un libro di critica letteraria, ma anche una forma di autobiografia indiretta, no? Fare i conti, quello sì che è un libro molto triestino, con queste contraddizioni di questi, insomma del mondo mitteleuropeo e così via, e che è stato un libro che ha deciso molto la mia vita. E sa, è la prima cosa, era in certi momenti lo rileggevo e mi pareva, sa, diceva, guarda che bello, così ero tutto fiero. Poi 5 minuti dopo leggevo un'altra pagina e dicevo, Dio mio, che stupidaggine, mi vergognavo, mi veniva la voglia di correre a ritirare tutte le copie, no? Certamente io ho molto esitato, un mio amico come Guido Davico Bonino, che lavorava già in Audi, mi ha molto incoraggiato a pubblicarlo. Il mio maestro di germanistica, Leonello Vincenti, non aveva torto quando, sa, che maestri di una volta con il gesto alla distanza, quando saputo che io avrei pubblicato in questa collana veramente allora, insomma, favolosa, mi disse, è una grande fortuna per un giovane, e io credo, anzi sono certo di conoscerla con me, abbastanza per sapere che lei non ne trarrà conclusioni affrettate. La prima volta termina qui. Grazie per averci seguito e per le belle cose che ci scrivete all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. La prima volta.